Come l'hai fatto? Ma te l'ha fatto? Ricci un attimo, bevi un po', di là si stava meglio a testa. Oh, si sta attimo. la France. Psi. Moi. Voltak. Мелочь.